Quante cose che non sai, quante cose ti direi. Nascondi un sospiro per non darmi l'ansia. La tua vita non la farò mai, tu mi dici te la caverai. E asciughi una lacrima dalla mia guancia. Mi hai insegnato a perdere e ora non puoi perdere più. Mi hai insegnato a vivere, ora devi farlo anche tu. Anche se brucia un taglio passa, lo so, ma lascia un segno dentro di me. Oh oh, tra i miei ricordi e polvere, quanti sforzi hai fatto per un giorno. Quante cose che non so, quante cose che ti chiederei. Restiamo in silenzio guardandoci in faccia. Spero almeno che mi capirai, se non so chiederti come stai. E cade una lacrima sulla tua giacca. Mi hai insegnato a perdere e ora non puoi perdere più. Mi hai insegnato a vivere, ora devi farlo anche tu. Anche se brucia un taglio passa, lo so, ma lascia un segno dentro di me. Oh oh, tra i miei ricordi e polvere, quanti sforzi hai fatto per un giorno. Di te un giorno in più, un giorno in più.